chi è chi? Attenzione 10, c'è qualcuno, cambio. Che a voci, ciao Gianni. A voci, io non sono a voci, no. Buonasera Franco, sono così tranquillo. No, stavo scherzando, no, stavo ascoltando la lezione e ti ho sentito. La lezione? Sto seguendo una lezione radio maturi di un corso per il corso, capito? E dove la segui, su internet? Capo, c'ho la chiavetta. È un corso abbastanza aggiornato, ti spiega tutto, elettronica, tutto, satelliti, tutto quanto. Di nuovo non ti dà. E meglio, l'anno scorso non l'ho dato perché ero fuori, quest'anno lo do però, già. Sto studiando per quello, sto ripassando, diciamo. Là. Ma avevi già studiato, mi fa? Capo di positivo, però non l'ho potuto dare perché ero fuori. Adesso sto ripassando di nuovo tutto, capito? E cosa andrà a farmi bucciarsi, no? Mi devo preparare bene, mica mi devo far bocciare. Certo. Vabbè, adesso è solo un ripasso, non è uno studio. Sei già studiato, è solo un ripasso, una rinfrescata. No, lo sto solo ripassando, non sto studiando. Cose che già so, però, capito, ogni tanto me le ripasso, se no magari qui mi dimentico con andare del tempo. Va bene, dai, se ti interessa, a me non è mai interessato. Quindi adesso per dire, oggi mi ha acceso il ricevitore, mi sono addormentato con il ricevitore acceso ascoltando Radio Amatori, però era interessante, dai, ho trovato Radio Amatori un po', diciamo, spiritosi e cose. Quando mi vedi senti così ti fa anche piacere, ma quando senti il contest e tutte queste cose, a me non mi piace. Vabbè, già, però già è bello, dai, io me la voglio prendere perché mi piace. Mi piace perché voglio cambiare, provare altre frequenze, capito? Parlare fuori. Ma devi saper parlare bene l'inglese e il francese, capito? Devi conoscere bene le lingue. Per dire, ci sono gli amatori che parlano russo, parlano francese, inglese, qualsiasi lingua si arrangiano a parlare. Si conferma. Se vuoi fare di ex, almeno che tu ti accontenti di fare i soliti passaggi, dire nominativo, segnale, tutte queste cose qua. Adesso comincio e poi, quando c'ho la patente, comincio a fare un po' di pratica, vediamo a fare. Già, sto facendo un po' di ascolto anche, capito, con il ricevitore. Forse quando si sente male il ricevitore che ho preso, ui, cazzo fra, è una cosa impossibile, piccolino, ma pile adulto, si sente bene, forte, c'ha il volume sino a 100, immagina. Ma come lo stai pilotando, col discone? No, con l'antenna che abbiamo messo sul tetto. E ci metto il discone ancora meglio. Si sente benissimo, non è frusciato, arrivano a 9,20, segnale 9,25, 9,10, tutti così, oltre il 9. Vabbè, ma dico, col discone puoi fare tutte le frequenze, con quello non lo so, fino a quanto, però fai 28, fino a quanto arriva a 30. Io ascolto sempre sui 40 metri, intanto non me ne ha fatti nulla. Ascolto i 40 metri, che sei quello più popolato. Beh, 40 metri è più praticata, sì, è vero. Vado lì, nel 7000, 7002, c'è sempre gente. Sì, 7125 pure. Da 7000 a 7002, compreso. E va bene. E si conferma. Cosa stai utilizzando adesso? Un microfono normale? No, perché non si sente l'amplificazione. Vabbè, io ce l'ho a volume basso, sì. Guarda adesso, perché sono ben lontano, sono lontano un braccio, fra. Bene, già, va benissimo, ti ascolto bene. Ma l'amplificazione si sente. Già, di russo, va bene. Sono andato bene anche con quel Midland, non me l'avete ordinato voi? Ma dato io ce l'avevo ordinare, poi mi ha detto aspettiamo, non lo so, cosa avete detto. Se lo ordina lui me lo prendo, se no non è che mi interessa più di tanto, già ne ho microfono. Fate in macchina, c'è quella radietta là, quello piccolo, l'hai visto, quanto esce bene. Ma quel microfono lì non fai altro che attaccarlo e funziona, perché c'è gli attacchi tui, c'è l'attacco Galaxy, là. Quanto siete chiacchieroni. Ciao Tony, buonasera. Vabbè. Ciao Tony. Ciao Gianni, ciao Franco. Chiacchieroni siete. Ancora bucato, sì, va ogni volta da sonno. Bisogna che le patapazzo le avevo finite, mi così intendi. Tu eri bucato, eri esercitato avanti. Io mi sono citato avanti. Allora, guarda il telefono tuo, c'hai due chiamate e non mi hai mai risposto. Puzioso di vero, sto chiedendo a baracchino. No, veramente stavo studiando io, cioè studiando, ripassando, non ero al baracchino. E ragion per cui io ti ho chiamato e non mi hai risposto, invece per te, mi sarai. Sicuramente quando stavo seguendo questa lezione, sta per finire. E chi è su basso basso? Cari Fulmer, stanno chiamando, mi fra. A chi? Giovanni deve essere stanco. Sta chiamando California. E me stanco veramente, mi. Scappa, già sto bene, tu, Giovanni. Come stai uscendo Santiago 5? Sto raducendo, Franco ha fatto lavoro di banda. Raducendo, diciti una cosa da docca. Cazzo, muore che però se vai Giovanni è da me tornare la tua partenza. Secondo me c'hai sempre Duccendi tu. Dai, va, ti cos'è il minimo, quello mi dà di 30 watt, aumenta, pago su Midland. E non mi dà di 5 watt, ne vuoi andare. Ma tu lo senti? Ti ha rovinato solo la radio, sì, io lo sento. Ne ha rovinato solo la radio con l'attaccato, non ha cambiato nulla. Che dire da dove sta modulando? Sicuramente dalla baracca. Dove sei, nella baracca? Ora questo gatto d'antenna di gatto, Nella ruota. Tutta la via con l'antenna. Ha detto che prova a ricambiare e continuare a parlare, se non l'hai sentito. Questa antenna è carica stazionale, c'è una Ringo, che il vetro gliela tutta messa, tutta rovinata. Cosa prete? Poi c'è l'antenna buona, ho capito perché ce ne fanno lì con quell'antenna. Ma non hai ripiazzato quella come la tua? Ma non è usa, non è usa perché ce ne va nella roulotte. Questa è come un'altra persona che conosco, c'ha mille apparecchi, c'ha apparecchi che escono bene e usa quelli che escono male. Un poco come te la roulotte, dopo sotto la tettuglia, vuoi andare un camper? No, la roulotte non è il camper, la roulotte mi pare che l'abbiamo regalata. No, che c'è il camper, nuovo. C'è anche il camper, ma la roulotte dice che l'hanno regalata e gli ha fatto la stazioncina lì. Ma sta sempre sforzando, se gli ho detto buscati, comprati un po' di filo lungo e ti fai un commutatore se vuoi stare lì, e non stai con due antenne, commuti lì e usi lì, quando te ne vai là la commuti all'altra parte, invece stare con due antenne, che non servono a niente due antenne. Avanti, tu. Sto mangiando. Mi sto tirando di pieno. Peccato. Ma visto quel documentario, quel tipo che pesava 380 kg. Oh, in realtà mi tesca non è 31. 80 kg è l'anno miliardo gradi. Capito? Con la gru. Tu vai canale 31 la notte e lo vedi, real time. La madre dice tutti, che si può bisogno. Perché c'è questa faccia rovita, pizza. Con gli occhiali, ho visto mille volte. Mi sgrida, dice, ma tu non hai fatto nulla per migliorare, la prossima volta se non cambi morirai. Già rimasi caga a poco. Ma quanto è buono, c'è un biscottino ripieno, Il biscotti non ti piace? Mi ha mangiato già due pacchetti. Sarebbe ogni pacchetto ce ne sono due, quattro, bubaccia. Io stamattina sono andato a fare le analisi. Sembrava che me lo sentissi, mi chiama centro diabetico. Domani, lunedì c'è la cosa, c'è la visita. Vuoi dire che mai avuto, lo sa come pieno di zucchero. Non sa, come metti di zucchero. Come mi sciuta, zio, non metti mai. E anche Natalino si sente. È preso Natalino e ascolto. Che male sta facendo cosa, anche lui. E tutto lì. Ma già, ma tu mi ascoltavi bene stamattina da giù. Gianni è caduto, è da maniera. Gianni chiude il frigorifero. No, sicuramente sta. Sta facendo cosa. Poi. Cos'è tu già? No, Giulia. Il segnale è buono da te. Sono scala. Già va bene, dai. Vabbè, sto usando l'altra radio adesso. Una mia radio è sempre buona. Sì, sì. Il segnale è 9 qua. 9, 10, 9, 5, 9, 10. Già va bene. Così dovrei aumentare. Guarda. Cosa dici? Boh. Già, hai aumentato. 9,15, sì. Ma va bene così, dai. Questo c'è lo liscio. Vabbè. Dezzipate. Gianni, lascia il frigorifero. Non è andato andare con un caffè tra il frigorifero che c'è mangia. Boh. E poi ti fa fame. Ciao appetito. Gianni. Ciao al telefono, un attimo. Ah, al telefono mi. Al telefono San. Sì. Niente, buona santa farmacia e niente. Sono andato alla farmacia che c'è vicino alla questura, per la niente, non ho finita, io non ho preso neanche il numero, il numero fuori l'hanno messo, no, me ne è già andato, sono andato più avanti, e non c'è nessuno, sono entrato, vado le medicine, cioè mi dice, hai fatto parazzolo che sarebbe protezione dalla somma, e mi sono tornato a casa, io ho telefonato, e vabbè, te la c'è, va bene i guffi, meno mi, e beh 5.000. E dove vedi che rimposa su Facebook, eh? E dove fai uno sportivo Maria, servizio in campagna. E cioè cosa controlli? L'erba? Anche le praterie. Fatti fra. Mi ha Fiorellino, ciao Fiorellino. No, Porcellino si chiama. Ah, cambiato nome da tipo già vabbè. Sì, perché lui apre il frigo e mangia. E già va bene. Ecco, te la bagnati, Bi. Vai, boia. Beh, vabbè. E gli occhi di buon cuore, Manuè. Cuore buon cuore di Manuè, dai, ci sentiamo più tardi se coincide. Allora, fra, cosa mi dici? E allora, mi sempre ben di cose. Dopo si trovano alcune cosette qua, poi c'è il campagna, controllare il cane, stavano. E poi me ne sono salito, sono passato alla piazzetta, ho preso le frittelle. Le frigioni, poi di che grassi che? Sì, vabbè, ho preso un pezzo, sai. Stamattina che la mia ex ha preso le frittelle, avevo un pezzo, ho detto, un pezzo piccolo, togli lo zucchero, che sennò fa cari, dai, un pezzettino assaggiato e buh. Ho detto, sì, ma non mi piace, perché non c'ha il sapore di anice. E no, dove prendo io, al panificio non ne mettono loro, ma ci vuole un po' di anice, quel del sapore buono, là. Niente, erano normali, erano mia zia. C'era una signora che abita vicino a casa che le fa, ma le fa buone veramente, c'ha proprio il sapore dell'anice, capito? Tu vedi che mi piace lo sapore dell'anice, cara. Sì, ma a me proprio le frittelle, sinceramente, non mi piace. Preferisco più mangiare un bignè con la crema dentro, boh. No, a me non piacciono anche le frittelle, io, Guglio. Provo ad andare da Cattalocchino a mangiare le frittelle, dopo vedo la risposta. Sono sempre frittelle, già. Io qua in frigo c'ho un bel pacco di 8 pallotta di profiterole al cioccolato. Ma se no non sono buone le castagnole, quelle con la crema dentro rotonde, fra. Quelle sono buone, sì. Alla piazzetta, ma non c'è un sapore di niente. Tutto zucchero di suo, Ma proprio il sapore di frittelle non ne hanno, capito? Ma zucchero con le cose. Zucchero, ragazzi. Tipo sapore di castagna, ma castagna è lupo, ma... Dipende dove le come. Ma quello che ha fatto qui non fa buono le frittelle. Certo, quelle sì, anche le pizze fa buone quelle. Allora, le pasta grandi, ma veramente grandi, Gianni. Le fa veramente da Cesaraccio, il panificio che c'è, dove c'è Luca Fritter, un po' più giù, quel panificio là c'è Monica, io la conosco, lavoro lì, e già le pesche sono giganti, ma veramente belle, con la crema dentro, quelle zanate, e già le paste sono tutte giganti, sono buone, quelle sono paste grandi. Io non ho scoperto un'altra di pasticceria che fa le paste buone, sono piccole ma piene di crema e belle croccanti, le cose, le ciambate sono croccanti croccanti. O se no vai agli punti dove, come era quella via, non mi ricordo, e là le fanno grandi lo stesso le paste, e tu guardi la sostanza della crema, tu anche non te ne sono minori, ma mi sono tutti di crema, bubù. Sempre di paste state parlando, adesso mi avete anche nauseato. Mezzo Gianni, piccole mampini di crema. Guarda, un ex pasticcere che non voleva parlare di pasta, ma te l'immagini? Avviene, ne ha fissa la nausea. Ma che la ribatti vieni. Ma vivo però. Le paste fanno ingrassare, fanno animare. Sì, uno ogni tanto, ma se ne mangia un bel, via. Gianni è abituato a parlare di paste con la crema. Dici minori, ma c'è la crema del rezzo. Dobbiamo essere un cudro mosso, si sì, la crema e puzzo la bacia all'acqua. Ah, li piacciono i graffi, mezzi ripieni, mezzi imbuffati a crema. Che domani devo andare, perché lunedì devo andare a centro di abito. Ma qui non li puoi mangiare, andate. Chi sta facendo male? Sembrava uno sclavo. Non so, chi vuole entrare? Lo sito, Aspetta, Mirko D'Alghero. Mirko, ma stai facendo male, non capisco il perché. Non stai uscendo bene di radio. Ma non è in FM per caso? In FM sì. No, è FM. Fai gutto. Stai uscendo male, Mirko, sembri in FM, ma non sei neanche in FM. Si sente tutto. Ha detto che è il microfono. È quello minchiofono. Natali, forse tu lo ascolti meglio. Ma mi parli che hai detto? Attenzione, Mirko, Mirko. Adesso sei tornato, riesco a capirti meglio. Ciao Mirko, buonasera. Con tua. No, parla con te. Dire che va male il microfono. No, così è già basso di radio. Prova a alzarlo piano piano, vedere se dove arrivi, che arrivi bene, dai. Così è chiara la radio, dai, non è tanto forte, ma è chiara. Ma un po' nasina pure, dai, già. Lo so che è nasina, ma è più chiara di prima. È una radio bruttina, dai. Mirko, mettiti un altro microfono, magari quello non va bene. Lo può andare bene se gli fai una modifica. Se gli fai una modifica, due ponticelli, e ti va... Questo qui è quello della ZG, quello che stai usando tu, però è l'MB più 4 invece che il più 5. Regola i tunit, chiudili tutti e poi li apri piano piano. Così sei più chiaro. Vabbè, avanti fra, dai, riprendi. Riprendi un attimo, c'è una computer già, un secondo, dai, riprendo su. Torino, avanti, dai. Ma Torino è andato via. No, sono qui, sono. Stiamo preparando per mangiare. Io sono entrato, ero lì un attimino a bevere. Cazzo, è già le 7, so. Sì, ma con 2 minuti alle 7. Già va bene, già va bene. Ora di mangiare, ora di mangiare. Oh, andate piano con mangiare, piano, che vizio avete preso sempre di mangiare. Fate come me. E si fa anche la merendina, signore. Che presto ancora, già, per bacco. Ma la merenda non la devi fare, ti fa male. Io stamattina ho fatto le analisi e sembrava che me lo sentissi, ma è già mandato di diabetico, che devo andare lunedì. E vuol dire c'è qualcosa che non va? No, se non ho presentate le analisi, c'ho l'appuntamento per lunedì alle 10. No, io ce l'ho a maggio, mi ha detto va troppo bene, l'anno scorso dice mi ha dato l'appuntamento a maggio, quindi sono tranquillo, adesso a febbraio, marzo, aprile, ma hai fatto il mese, ui. E allora da agosto adesso? A me mi ha detto sempre, mi raccomando, fai colazione, poi fai il pranzo, poi fai la merendina, poi fai la cenina. Merendina non c'è. E puoi mangiare un pacco di cracker, così mi ha detto a me la dietista. Poi mi ha detto, ma la mattina che la ti alza? Dai, il dottor Ibiazza alle 5 del mattino, e dopo presto la sua, faccio colazione pure quell'ora. E allora fai una cosa, se poi verso il 10:30 senti un piccolo guino allo stomaco, ti fa un bel paninazzo bello con prosciutto cotto, che fa bene, e fontina. Ma mi devo credere. Ma è dopo ci trovi la porchetta e mi dà corno. Mi pare che il dottore sei tu. Oh, grazie a Dio, infatti voglio eliminare un po' di pancetta, non ci riesco. Vabbè, è l'età anche, tu lì, a una certa età la pancia si gonfia e poi eliminarla è un casino perché i grassi sono duri, non sono più grassi molli, quindi non sono grassi liquidi. Per eliminarli ci vuole più tempo. Ma non mi va bene perché il grasso si dà un po' giù e poi mi si gonfia anche l'altra cosa, quindi mi va bene. Io sempre le gambe di mezzo, dici. Ma caruva, se no fa di meglio. Voi l'avete maliziato, tu eri attaccato. Ma ti immaginai che tu già eri sempre con Tonino, là. Mi parla a bazzi, Tonino. Natalino dovrebbe fare il prete. Ma va bene, lascio a fare Natalino che sta facendo troppo bene. Tu ce l'hai sempre con me, ce l'hai, E allora, lo stai portando sulla brutta strada, questo ragazzo, Io lo uso, Era talmente timido, vergognoso, che faccio la baraura, io diventavo rosso, e invece va, È tutta colpa di Gianni, Ti sta portando sulla brutta strada. E allora, lo sapete voi, non mi avete portato a mangiare le paste, da quando voi mi avete portato a mangiare le paste mi ha preso il vizio. Allora, guarito. Ho avuto 3 anni, il dottore e mamma l'ha detto, la buona mia mamma, sua figlia è molto precoce, basta che si parla di donne, subito lui vede cosa succede. Ma figurati. E lui in fronte io. Io sono Ghicciaghi, allora manco fra un anno Ghicciaghi un poco. No, Ica fra un anno, dai, già mi vuoi bene, facciamo per 10 anni, yeah. Ui. No, fra un anno che cambi il modo di fare. Ascolti, quando funziona, anda bene. Budichi mi la volto, vero Tony? Che cosa mi dissuccio? Che cos'è Tonatali? Ho detto, budichi mi la volto, così è Tony. Beh, Gianni, non li piazzi, boh, lo uso io. Dunque già, se sei geloso c'è anche un po' per te. Geloso? No, io non sono geloso di niente. Io faccio il mio e tu fai il tuo, eh? Però se ce n'è di più è meglio così. La colpa è tua, tu mi hai portato in questa brutta strada. Lo saranno. Io sono abbastanza riservato, non ne parlo di certe cose. No, lui non è. Hai capito, Natali, non ne fa lui, no? Dio santo, Buraridio, ho compreso. Già, a proposito, volevo chiedere una cosa, ma stamattina nessuno è entrato in frequenza, perché io ero per mettermi l'antenna, ero con la macchina e volevo mettermi l'antenna, ma qui ho detto non bisognava nessuno. Sì, c'ero io, Giulio, Carlo, sì che c'era gente. Allora ho fatto male, ya. Mi volevo mettere l'antenna. E bastava metterla e ascoltavi se c'era gente, no? Sì, c'era Gabino, io, Giulio, Carlo. Carlo era col portatile perché non è riuscito a aggiustarlo con l'apparecchio. Sicuramente lo porterà ad aggiustare a Morole. Franco c'è ancora, sì. Franco sta studiando, che non lo devono bocciare, ha detto. Oh. Vuole andare a insegnare ai professori, ha detto, che li farà schiattare tutti. Le facci luci di Bora. Cappa. Natali, allora, se tu preparato ti stai. Manco per le scatole me ne frega. Ma non lo fai se lo fanno qua? No, lo fanno via internet, sì, io lo faccio. Ma non me la prendo calda a calda, qua. Se mi vuole promuovere, se mi bruciano, mi prendo tutto. E non me ne sbatte il cavolo. Come ti vendi tutto? Un apparecchio della 27 le puoi tenere? No, tutto mi venda, che intanto qui tu non hai idea di giambassi l'antenna della TV. Aspetta una cosa. Ma se lo farò via internet, questo è un mio pensiero che mi è venuto in questo momento. Natali, non può essere che uno M lo fa apposta a nome tuo e esci promosso. E esci promosso tu praticamente. No. Ok. Devi mandare la domanda con i documenti e ti vedono in faccia, capito? E se io ho il PC che non c'ha la telecamera? Non ne dai esame, non te ne fanno dare. Che faccia di gomma, ya. Tutte le hanno studiate. E allora? E tu io non ne ho bisogno di studiare, ne so più di loro. È che non me ne... sono un emirino io, non hai capito. L'ho spiegato com'è la situazione. Ma devono fare in modo che tu vada male, perché se va bene non possono bocciarti da lì. Devono fare in modo di farti una domanda che tu magari hai difficoltà a rispondere e ti fregano. E non è così che mi hanno fregato. Guarda che l'anno scorso io, l'ultima che hanno fatto, quello è il migliore del corso. Il migliore, non ce n'era nessuno meglio di me. E esci da promossa, niente, io non sappia un cazzo. Scusando la frase. Sì, ce lo so. E allora, detto questo, detto tutto, se mi bruciano, chi sa bruciano, mi vendo tu, e non ci parlo più al baracchino, non me ne sbatte un cazzo. Già sto bene lo stesso, tanto per quello che sto parlando, va bene, tra un po' devo chiudere, ieri mi ha telefonato, a vedere se va a dividere la televisione, perché ho sforato appena appena subito al telefonato. Controllaci. Non sto scherzando qua. Giuro che non è scala qua se non è vero. Cos'è così che non ho capito che sono tornato in cucina io? Com'è Natali? Ho detto che subito mi ha telefonato perché ho sforato le 7:30 e lui si doveva vedere un programma praticamente. Ma mi la fai vedere la televisione? Io no. così mi se faccia anche per tirare la longa subito telefonando. Ma non sarà che questo qua ti sente per caso se te e lui subito ti chiama per farti neanche accedere il baracchino? Io sono pensato questo a me. Non è Mario Giussi? No, che questo qui c'ha l'antenna a marcia, non fa massa, è un'antenna che per 40 anni in antalista gabbe chiude e non si può uscire dal tetto perché manca la boccola per uscire, che l'hanno chiusa, capito? E quindi c'è difficoltà a poter salire sul tetto per a uscire dal tetto per poter cambiare l'antenna, perché vuole nuova, è fradica, è logico che lo disturbo. Se a me quella che avevo io me ne farà ben capo, ormai mi c'hai bisveggia, ma qua mi sono capitato che ne era da Renzi, si è truccato a rubarlo a chi era bradiccio e ne è caduto in terra, in strada. Allora, qua Natalino, dove abito io, l'antenna era tutta gatta a buccia mare, perché poi quando sono morti i vecchi, io televisione c'è a temporale, non vedo più nulla. Ho 50 volti e nulla, allora mi sono rotto le palle, c'era da fare, sono andato a Bricome e mi sono comprato la mattonella e la fine di squalo. Io ho quella mattonella che funge da antenna sopra il frigorifero appoggiata e vedo 270 canali. E quella che si è in camera letto, la pinna di squalo, ride come sopra, prendo tutto. E a te, può essere temporale che vuoi, io vedo sempre tutto quanto, non mi disturba più. Lo so, ma qui purtroppo c'è gente ignorante, compreso, e dice, io quando tu non fa vedere per cui la televisione, non vedo il motivo per cui mi debba cambiare l'antenna, capito? Non rispettano i diritti altrui, queste persone, insomma, dei maleducati e basta, e ignoranti. Ma c'è di ruggiare tondo, io ci ho permesso, ma sono donare, quindi a me non me ne fu più nulla. Arrangiati. Ecco, pare la tua, te li qui, almeno la finisci, te lo porti le scatole. Ma la tua, te ne la disubbia, te le gioia, ti vuoi, lo fai. Ti sto dicendo che io manco a me disturbo, a nessuno disturbo. È inutile che gliela compri, dopo se l'attacca a culo l'antenna. Ti sto dicendo che c'è difficoltà a salire sul tetto. Non può uscire dalle tegole per poter cambiare l'antenna. È quello il discorso. Lui è il mulattore. Ha detto che la faccenda questa botola e non ha fatto. Ma ci vuole molto, Gavi. Ma Gavi, oh, Natali, scusa, ti metti un T all'antenna tua e un pezzo a lui e si vede l'antenna. Così lo fai ti vuoi. Né a te né a lui. O no? E risolvi il problema. Non mi comprendi, Chico, ma ho compreso. Che ci vuole un boss. Che è a modo suo questo qui. Ma non abita sopra te. E un palazzo, ci rimetti una di quelle quelle staffe per la, come si chiama, per la parabola, e rimuovi l'antenna in chilo. No Gianni, allora l'antenna che scende Natalino, là mette un T, un cavo lo attacca per lui e un cavo che entra a casa sua. E quindi automaticamente se non fatti vuoi l'antenna sua stessa, Natalino lo dà a quello lì, l'altro cavo dove c'è il T e non si disturba più nessuno, pomodoro quanto pare piace. Io ci per cortesia si può attaccare questo cavo, così lì non vi siete più e vede la televisione bene, molto ci vuole. No, l'antenna mia è sull'altro palazzo, perché l'antenna mia a Giumà mi ne va in capo e siccome non potevo salire sul tetto l'ho piazzata nel palazzo a fianco. Ecco, però il cavo arriva fino a casa tua, la casa tua metti giustamente un D e praticamente puoi mettere uno spezzone per lui e uno per te per casa tua e si è a posto, non disturbi più. Già lo so, ma vai a far più con più un dia, dice. Io devo far capire se non si abbia luce, muretto. Io devo modulare e quindi mi deve la luce. Se fai come dico io, ebbene, se no fai quello che ti pare e piace. Lui vuole viverci lì. E lui ci mette il letto che era a casa da Puglio, invece ci sta vivendo lì. Cazzo, perché viene ogni sera, dove sei andato male dei conti? Con l'amica. E allora cazzo, ma la domenica, domenica solo va. Ah, la domenica solo va, l'amico. E io dici, io devo per forza modulare, io faccio parte protezione civile, quindi no, me ne frega niente, mi senti in televisione, se vuoi anziché sentirmi mi faccio anche vedere e mi vede anche la faccia mia. Ma guardi che mi incazzo, ti dico un po' a tu pezzo e io la contella anch'io, non lo vedo se viene a comprimere il ballo, perché io quando mi incazzo per me vengono 5 minuti, no, non capisco più nulla. In quei 5 minuti sono capace di ammazzare una persona. Dopo non c'hai più la concetta vicino. Violento? Sono violento, sì. E quindi cerco di calmarmi, di non avvivarmi, perché se ne avvio poi per le vessate. Ma questo qua, anziano è Natale? Giovane, è l'anziano. Non ragiona. Sì. Se non ragiona lo facciamo ragionare. Io vado a gli fare due romanzessi e due telefono a canto di Baviglia, dici un telefono. Senti, l'ho occupato. No, signor, il blocchi il suo numero, sai, e lui quando ti chiama. Io faccio così, quando la bassa mia antipatica, vado, blocco la chiamata, e lui sentirà solo uno spiro, poi pi, e quindi automaticamente non può fare già. È come che le stai chiudendo la chiamata, e si attacca lo dramma. E infatti adesso l'ho avverto. O tu cambi l'antenna, io farò lo stesso e tu televisione non ne vedi. Ma io ti denuncio, qua il cazzo che vuoi, sono già venuti qua e mi sarei buttato la faccia in culo, gli dico. Poi se dovesse suonare la porta il campanello, tu avrai un occhio magico, guarda, è lui, sì. Vai in bagno, ascolta bene, fallo però, e prendi lo spazzolino, quando apri la porta te lo metti vicino come il microfono, dimmi cosa vuoi. Però deve essere pieno sporco di cioccolato. Gianni, tu sei a dieta, quindi si può parlare di questa roba qua, dai. Non di pasta, perché sei a dieta. Ho mangiato il sista. Ma pasta di nuovo? E allora? Se devi fare la visita lunedì, ma insomma. Ma stamattina me l'ho fatto il sangue, dopo riprendo. Vedi Natali com'è. Poi dice che risale la glicemia, mi? Va bene, se noi lo potremmo attivare. Già è, lui ci rimane a ritrovarti. Certo, ma non fanno due, la glicemia non so, per cui non mi hanno fatto niente. E le ciabatte di Masia sono una squisitezza, croccanti, ma buone a vero. Ma hai messo le corna a frottolella, alla Masia. Vabbè, Masia era vicino dove ho fatto le analisi, dai. Natali tutti se le sta facendo, me. E lui di Ronda è fermo. Gianni, mica ti fa male, no? Ma lo vedo fa buffuretti. Ah, boh, non lo so io vedo come mangi le paste, che sia un aspirapolvere. Ma io su tutto, io mangio in freddo. Anche quando pranzo, tutti mi dicono, calma, ti mangiano, calma, te è il mio modo di mangiare, boh. Ma è sbagliato, perché non digerisce anche bene così. Ricorda che la prima digestione viene masticando. Se tu mangi il guai, boh, non va bene. Quello lo dici tu, io non ho mai avuto problemi di digestione, mai. Aspetta, fra 10 anni poi vediamo un po' come stai di stomaco. E se no ci devo abitare a un gelato, su cosa? Il gelato lui copre la vaschetta da chilo, o chilo e mezzo. Se lo mette lì, lo fa bene sciogliere, poi piglia la canuccia, se lo riduce. Io mi sto toccando. E perché ti stai toccando? Perché mi metto che fra 10 anni non digerisco più. No, che non digerisci più. Che avrai, diciamo, dei problemi di solo che perché non digerisci bene. Ha voglia di pigliare brioschi giù. Allora, per fatelo sapere, io mangio la peperonata di notte, non mi fa un cavo. Non mi fa niente. Invece, non mi faceva un briciole di stomaco. Ed è più giovane di me, per dire. Anch'io mangio la peperonata di notte, mangio le fave, mangio i citrioli in insalata, io masco piano piano, infatti se come devo mangiare piano piano, tanto fretta non ne ho, ripeto, e digerisco tutto, quindi non ho problemi, a meno che non va buffo, allora se ti ho un po' la stomaco pensante ti prendo un po' di brioschi, se no assolutamente. Sì, ma tu mi hai dubito, io mangio il giorno, cioè mi sono visto quella pasta che ti hai mangiato l'altra volta, perché manco vita, cioè te l'ho visto in mano, guarda, mi sono girato a sinistra, a destra, cos'è passato, mezzo secondo, non ce l'avevi già più. Per forza, perché mi stavi fotografando, non mi hai fatto mangiare manco la pasta in pace. Ma quasi di sé, ti tremando di voi. Natali, non si può fare caso all'anno che dico me. Ma va pure. Oh, io sto cane, cosa si vuole dire. E andiamo il telefono, zitto! Quando ci prendevamo il gelato a portato, sì, io arrivavo, ma neanche a metà, a 3-4, e giravi via, sbronato. Ma che non è che ci mangiano, si sbrona il gelato. E lo giuccia, lo gioco. Gianni, queste cose fai. Non ci parlo più con voi. Oh, hai capito? Quando lo tratti bene non ci parla più, sai, mai? Sì, grazie, se non mi tratti male, cosa fa? Ma è dopo che ti vogliamo bene, Gianni. Sì, già lo so. A modo vostro. Non ci parlo più. Non piccinite, mi pare. Vabbè, già ti porto la pasta pronta al tela. E io sono diabete, me l'ha fatto vignetto, mi sono tutte le maledizioni che mi ha chiesto. A chi mi ha giudito una volta al disbarco, mi era questa mancata di batti, il gatto. E sono andato a pigliarsi un caffè, due Gianni. Ed è così che la mangiando di colucci, che si prigioni per di bene di crema. Ti l'ha visto, sei diabetico, ha detto. Mica è giunto a me tu. Hai visto? Finito l'ha fatto venire a te, ti ha contagiato. Se una volta detto che passavo la mattina, poi mi sono dimenticato, non ci sono passato, lui aveva comprato un prezzo la mattina alle passe. Si è mangiati tutti e tutti, sì. Gianni. Tu vuoi essere accappato, dici voi. No, è vero, che male state dicendo, per infangarmi. No, veramente le passe le avevi prese, me ne hai detto che tu. E ho preso anche le passe a Portobello, l'ha preso così, passavi tu e cioè, mangiavamo, e ho dovuto mangiarmela da solo. Ah, è vero, perché sapevo che tu dovevi passare, ma io ho sempre un pensiero gentile nei confronti degli amici, e invece tu non riesci a apprezzare. Hai capito, Natalia, che io bugia non le dico? Eh? No, l'ha mangiata anche Elena, se l'ha mangiata mezza anche Elena. Mezza? Su sei passe, Natalia, cosa ne pensi? E mica le butti via, scusa. Natalia non la faccia in terra. Ti pare che si rilampava, ma andava bella a pazzini, no? E non da dove mi dai a Elena. Non ce l'ha mangiato, sì che mezzo. Metà, perché se non li fa male. Ah, ti fa male, bubu. Da detto che non è molto mai mangiare, io se no quello non digeriva, non li faceva male. E siamo mangiato metà frittello. E scommetto che te l'avete, lo so, se ti fa male lo mangiate a metà, me la mangio. Ma sono cose vecchie, non sono cose di adesso, adesso sto facendo la brava. Oh, sto parlando di mese fa, mi non la sai mi. E tu, allora, che ti vai in barini a due, le vuoi un papità? No, io me ne ho fatto uno solo, che erano le 11:15, che ho mal di stomaco, la fame, perché io ho colazione molto presto la mattina, capito? Era Biaturati, da sotto quel negozio alimentare da ultimo, che c'è Tamara, che la conosco, io andavo a scuola, lì facevano i panini prima. E niente, avevo un bel panino croccante con la porchetta, ma così buono, guarda, di buon gusto, l'ho mangiato, tant'è vero che poi non ho pranzato nulla, non va via più fame. Quindi sono perdonato perché ho mangiato solo quella e basta. Quella è una volta, poi ti sei comprato la porchetta, te ne hai fatto due a casa perché me l'hai detto tu, io mica non sono più vittiato. Te ne hai fatto uno dopo l'altro e ti è salita anche la glicemia perché me l'hai detto. No, quello con i panini giganti rotondi, grandi, che l'avevo imbuttiti con le patatine fritte e ho messo un po' di ketchup. Il ketchup c'ha lo zucchero, lo sapevi? No, non lo sapevo, ecco perché mi sei la glicemia, ma ora non ne mangio più. Controlla se è il tuo, nel mio c'è scritto anche zuccheri, eccetera, eccetera, e c'è la quantità. Ehi, vabbè, c'è il frigo adesso, poi vediamo. Natalie. Adesso lo stavo facendo anche con la farina di grillo. E tu che mangi le paste? Le paste non le mettono. Non le mettono le paste. Nel pane lo mettono. Anche nelle paste lo metteranno, non ti preoccupare. Quelle ciabatte che fanno mi? Con tanta farina sopra di grilluzzo. Le cavallette di tutto lo mettono. Comunque stavo guardando anche le cavallette imparate, se ti interessa. Che cosa? Se ti interessa, stavo guardando le cavallette imparate, tipo patatine così sono. Nella busta come le patatine. Le cavallette imparate. Guarda, sono meglio i scarafaggi al cioccolato. Che schifo, ma dimmi tu, io pensavo che fossero barzellette. No, le ho viste anche in televisione, che schifo. Sagito mi diventa vegetariano, verdura, frutta e carne, e boh, al limite, poi secondo cosa ha iniziato nella gara e poi manco io mangio, già capi lo stesso, fanno schifo, va bene che siamo 8 miliardi nel pianeta Terra, ma a mania che gozica. Io ho visto su internet questo che va a pallone, c'era l'allevamento di grilli, c'aveva, hai visto i cartoni delle uova, quelli che usano anche per disonorizzare dove fanno musica, roba del genere, i cartoni delle uova, uno sul lato, tu li alzavi, c'erano tutti i grilli dentro. Che schifo. Ma io dico questo, allora, siamo 8 miliardi, stiamo sempre aumentando sulla Terra, ma tutte queste guerre, cose, muri niente, milioni niente, muri, quegli altri di coronavirus, quelle di guerra, eccetera, eccetera, ma insomma, invece di diminuire, la Terra siamo sempre aumentati. Ma non ci deve essere la guerra è una cosa che fa male a tutti, a tutti. Ho sentito delle amiche, hanno pagato 400 euro di luce questo mese. La luce è aumentata a tutti, però da febbraio o da marzo mi sembra dice che la bolletta viene calata, quindi nel 30%. Ma non arriverà mai al livello di prima, capito? Sempre di più sarà, sempre più di prima, ti fanno lo sconto di 20 euro, che cosa so? Sì, la luce è aumentata, ma se non fai, se non sprechi non devi pagare così tanto, c'è poco da fare. Aumentata di gatto, devi andare a 75 euro che li pagavo, 230 euro, gli ho aumentato abbastanza. Già ti diminuisce del 30% la cosa, la bolletta adesso. Già è vero però che ci stanno ammazzando, Tony, Lo so, è un casino, ma com'è che io non li pago russi? Tony non li paga, l'ho fottuto da pagisci, ma se te se lo devi pagare. E allora me ne sono andato via. Mi compro un gruppo e c'è la corrente. Pannelli solari e c'è la corrente. Ma cos'è, portantina? Sembra. Ma è piccolina, C'è per la pala di corrente che ce lo compro. Tanto Natalino arriva forte, tu arrivi forte, quindi. E tu ide. Quindi, non si batte né caldo né freddo. Se vuole entrare, entra. Un paio di colpe diamo anche a lui. Faranno anche le paste. E me come prima entrata ci deve portare un po' di pasta a tutti, a Natalino, a me e a te. Natalino, ma a Torino lo portiamo. Lo portiamo a mangiare il panino con la mortadella in quel posto. Ehi, aiù. E dopo ce ne andiamo a pescare già. Ma la baghetta calda calda. Allora, abbiamo visto questo negozio, che portato, non so se ci sia ancora, di quei negozietti che hanno la fettatrice rossa di quella manovella. Un profumo di mortadella, come ti sembrava, ha detto Natalina, io si bevo 6 panini con la mortadella e ce ne siamo in chidapica. Andiamo a Castelsardo e cominciamo a mangiare i panini. Tutta la mattina scorreggiando, e questo cane col padrone che ammaiava, come scorreggiamo, prima volta ammirato. Ma questo negozietto per caso era dopo il negozio di Mopole, sulla destra? Esatto. E non so se c'è ancora un negozietto, già. Io ogni volta che compro le baguette sono calde calde, le prendo due. Tiro che a casa ne arriva solo una. Anche in viaggio mi mangio di sangaggia una, me la mangio. Io lo sai cosa facevo? Quando compravo le baguette calde, le compravo anche un mezzo e mezzo di mortadella, diciamo il coltello nel borsello, poi l'ho tolto perché mi hanno fermato in tribunale e me l'hanno sequestrato e me l'hanno dato dopo quando sono uscito. E mi ha detto la prossima volta le devo chiamare la pattuglia e fare il verbale perché non si può più tenere. Vabbè, allora l'ho tolto per quello, ma ce l'avevo ancora. Tagliavo le baguette, ci mettevo la mortadella dentro e mi rimaniamo gatti in gatti, ma sai quanto sono buono. A me la morte sua, perché non so mica che là ci ha mettato un detector lì a tribunale, l'hanno messo quindi. Ma io il coltello, ma bello teccio grande, ce l'ho in macchina, capito? Non ne porta presso, e quindi quando mi aprire qualche cosa, apro e buco il trapuglio. C'è la sua fodera in plastica dura. E la morte sua, guarda, allora mi ricordo quando stavo trabaccando, ma io sto parlando di 15 anni fa, c'era ancora Giuseppe Facchio, quello che fa le commedie. E lui ha detto, Giuseppe, sono a fare i panini, ed eravamo lì a Comitato Nazionale. E ho detto, vado lì al supermercato che c'è qua dietro. coppa faccio il farino. No, no, no, c'ho una dieta, se vogliamo una dieta, non mangio, e io gli ho messo in mazza, va via, la dieta, vabbè. Vado a trovare le baguette calde, e compare giù, due baguette e un litro di mortadella, un litro e mezzo, non me la metto. Vado là, lui ci ha fatto la pausa come noi, ma beh da, il motivo, tante merda che sono morta nello fiago, tu sei a dieta, finita, dai, poi mi sa già poco di no, sei a dieta, non te lo do, dai, non farò mai, poi che mi una ragazza, un buono, faria un piccinino, già. Ma scusa, mi faccio andare in assinenza, domenica, tu fu, a mangiarmi la davanti, la paghetta a casa con la mortadella, ui, mamma mia. Metti la vacca a me guasta e fai mangimi con cibi, fa con una puzza che prendeva lo stomaco e non lo mangiate in un barino. Io quando scendevo giù nei negozi me lo facevo in negozio e me lo mangiavo lì quando capitava, ma non sempre. Ma loro tutti i giorni si mangiava il panino e la birra ci avevano sempre, tutti i giorni, con qui sul viago che non si poteva stare. Chi sta parlando sotto che non spassava con Gianni, forse volontariamente mi ci vede. Schiacciati. Forse lui, io ho detto, ma tu pure doni a mangiare da mazza e dura paghetta a casa con la mortadella. Gli ero grido un gatto che era in astinenza. Serviamo un magazzino per mettere l'attrezzatura e fatti la pausa nuccia di un quaccio duro, magnazzo il banino. No, anch'io, anche dovrò rimanere la cura, a travagliare, anche lui c'aveva la pausa, si fermava insieme a noi. E poi non ha voluto mangiare, non gli ha giovigliato, poi sono stato costretto, ho detto guarda, mi dispiace per il cuore, ti ho dato un pezzo di baghetta, porca miseria. Ti ammago, ma cosa paga per l'India? Infatti. Ma no, per compare giù buio di paghetti caldi caldi. ui. E se vi pongo dentro la mortadella, anche qui mi piace la mortadella proprio. Sì, io comunque ho visto quella mortadella che vendono già a fette sigillate nella plastica, non è mai come la mortadella affettata, quella grande, è tutta un'altra cosa. Sì, è vero. L'altra è molto più saporita, sì, quella a fette grandi è molto più saporita. Quella pistacchio in quanto mi piace. Non c'è confronto, quando è tagliata, appena tagliata a me, e tu fai la paghetta a gas, ui, a me fa di vai. E devi portare solo il coltello appresso, e rischi. Io quando facevo la spesa alla Comec lì, andavo, mi prendevo la baguette calda e via correndo in macchina a pigliare un guzzetto a tagliare la baguette. E invece il buio così, chi mi mantenesse la maglia, mi fermavo, mi prendevo qualcosa da bere, tipo un'anciata, la Coca-Cola, e mi bevo mentre mangiavo. Chi è avanti? Attenzione collega, se ascolti, l'isola della Sardegna, Italia, che chiama? Cambio. Chi c'è la mandriga? Passo di Cossuva, Nixa. Omo, lava più bianco di ora. Attenzione, canale 10, 27075, se ascoltate l'isola sarda, cambio. Attenzione, binario 10, allontanarsi dalla linea gialla. Sei qua, furuleco. Noi di chi? Comunque, a parte scherzi, io ho due baguette appena sfornate, calde, con la mortadella dentro, me ne mangio anche due intiere. Manuè, Mudu, che tu più stai mangiando e ti sei gonfiato le guance. A che bene a tutti! Perché ci gommino le guance gonfie già adesso? Io già ho un mare di mucca, Luciano, sempre magnendie. Il mare di mucca era Vincenzo, poveraccio. Io il mare di mucca conoscevo uno di colore, che era grassottello, era un bel simpatico. Sì, conosciuto, io lo conosco bene a Vincenzo, lo conoscevo bene. Era con me, faceva servizio ambulanza con me Vincenzo, capito? E Gorgo è buffone, era buffone che stava sempre scherzando, sempre facendo battute. Emanuele, sì, anche io riconosco anch'io, la figlia è sposata con un vigile. KK. Iorca, conoscevo il cane. No, Iorca era morto di tumore, l'avevano operato, avevano fatto colletta, l'avevano operato e non ce l'ha fatta. Oh, Gianni. Yeah. Alla Moody. Serenza Rai dove c'è una banca, cioè c'è un negozio sul mercato. Hanno già cambiato l'insegna, non è più quel nome, che mi si chiama via, che non mi ricordo più, e si chiama, non so, Carrefour, Carrefour, sì, perché le hanno sequestrati i negozi. Il tuo Carrefour si muove le mani tutte le rubriche. E anche quello che c'è a Corte Santa Maria, soprattutto, c'è anche quello. Quello non lo so, quello forse è ancora a Copec, perché ho visto che ci sono i volanti su internet. Però gli altri li hanno sequestrati, quello di via degli astronauti, insomma, ce ne sono tanti li hanno sequestrati. Quello di che c'è salendo via Gorizia, quello che c'è via Trento, lì dove c'era quel tuo amico pasticcere a fianco. Ti sequestrato. Ma c'è pagare i buffi, lo zigia, peggio bello.